Buonasera a tutti. Allora, questo che vediamo sullo schermo è la relazione, come l'avevamo vista a lezione. Dico bene? Come l'avevamo vista a lezione sulla settimana? Ok. Quindi sostanzialmente tiene conto dei fornitori, delle specie di piante, vendite, clienti. Sì, ma piuttosto poi magari la mando tramite gruppo. Grazie. L'unica cosa, magari ricordatemelo voi in settimana di mandarla. Sì, basta anche solo il print delle relazioni. Allora, vediamo un attimino. Dunque, come clienti sono state inserite due clienti differenti, colori azzurro, bianco, rosa, rosso, però colori tra l'altro è una 0 underscore. Dico bene? Come no? 1, 2, 3, 4, azzurro, rosso, bianco, verde. Mi raccomando, signori, cercate di dargli proprio la nomenclatura come ve l'ho suggerita io, perché è più facile poi riconoscerle. Quindi colori una 0 underscore, poi c'è clienti, fornitori ce ne sono un paio, listino prezzi, no. Poi, specie piante e cose del genere. Allora, qua il problema sulla query qual era? Sulla? Sì, ma quale? Questa? Ok. Trova? Quindi ad esempio il cliente Alice, tu mi dici ha preso solo il rosso o solo il bianco? Sì, e anche l'altro ha preso solo il rosso. Allora, quindi Alice è il numero uno. Nelle vendite Alice ha preso il geranio. Ma quale geranio? Quale geranio? Ah, ma no, aspetta. Ah, no. Ok, allora, signori, facciamo piccolo preambolo di quello che abbiamo visto la lezione scorsa. La lezione scorsa, per chi non c'era, infatti mi riferisco a quella fascia. Per chi non c'era, abbiamo visto le query di calcolo per colonna. Ovviamente per tutti coloro che non c'erano, su internet c'è sempre il podcast da scaricare, che sono sicuro che ogni settimana, diligentemente, il sabato mattina, appena svegli, sbobinate con particolare attenzione. Bravissimi, soprattutto gli assenti. Allora, in queste query sostanzialmente cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che si fa la query normale, dopodiché si va a schiacciare il pulsantone nella struttura della query a forma di sigma maiuscolo, che è il simbolo di sommatoria. Questo pulsante qua, vedete che mi fa vedere, guardate un secondo lo schermo, una riga in più, che è questa, la riga della formula, dove c'è scritto raggruppamento, somma, media, min, max. Ora, la lezione scorsa, sperando di essere stato abbastanza furbo ad andarlo a salvare, ovviamente no. Allora, la lezione scorsa avevamo fatto una tabellina sul solito database dei film, dove avevamo detto prendiamo i film, prendiamo ad esempio il genere, prendiamo il sottogenere, prendiamo il numero di inventario, ok? Così facendo, quello che lui va a fare è semplicemente andarmi a dire generazione Cina, sottogenere nessuno, numero di inventario 215 e così via dicendo, ok? Se io a questo punto gli vado a dare nella struttura delle query questo simbolo qua, lui mi dice, ok, raggruppo per genere, raggruppo per sottogenere, ma vado a fare ad esempio un conteggio degli inventari. In questo modo, eseguendo la query, quello che lui va a fare è raggruppare per genere, raggruppare per sottogenere e per ogni genere e sottogenere andarmi a dire quanti inventari ci sono. Mi spiego? Per chi non c'era la volta scorsa, consiglio vivamente di andarsi a risentire la lezione. In questo modo qua io riesco ad ottenere sostanzialmente un conteggio dei vari film che ci sono raggruppati per genere e sottogenere. Durante le lezioni avevo detto una cosa, prendete meno campi possibile. Ma perché? Perché più raggruppamenti vado a fare, meno i raggruppamenti sono efficaci. Perché se io prendo la popolazione di quest'aula e faccio un raggruppamento per sesso. E allora dico, quanti maschi ci sono, quante femmine ci sono, e ci fermiamo qua. Ok? Quindi sostanzialmente avrò due record, maschi tot, femmine tot. Se io faccio un raggruppamento per sesso e per, che ne so, età, ma è già età, allora, se io facessi un raggruppamento per età avrei, che ne so, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ok? Quindi 4 record. Quindi supponiamo che per l'età io ho, ok, per età io ho 4 record, per sesso io ho 2 record, ma se io metto sia età che sesso, avrò 8 record. È giusto? Quindi più elementi di raggruppamento metto, più il numero di record aumenta. Fino ad arrivare al caso generico, che se io faccio un raggruppamento per codice fiscale, in realtà non sto andando a raggruppare per un fico secco, perché il codice fiscale è differente persona per persona, per cui in realtà è come se io non stessi facendo nessun tipo di raggruppamento. Quindi per arrivare al problema di quella query, il problema di quella query è che ha una marea di raggruppamenti, quindi sostanzialmente è quasi come se io non li stessi facendo, o ancor peggio magari vado a duplicare dei campi che non avrebbero senso. E allora, nel caso di questo database, quindi quello del vivaio, io vado a riprendermi questa query. E qua, come potete vedere, ci sono tanti raggruppamenti. Qua bisogna capire che cosa voglio io da questa query. Ok. Allora, però, ripeto, quello che è importante qua è capire che cos'è che voglio da questa query. Supponiamo che io voglia quante piante ha preso un cliente. Vedere il costo di quanto ha pagato un cliente. Ma se tu vuoi vedere il costo di quanto ha pagato un cliente... Tutto quello che ha preso il cliente in negli anni. Ok, quindi quanto ha speso da me. Sì. Ok, allora prendi il cliente. E il prezzo di vendita. Delle piante? E allora gli mettiamo anche la pianta. E eventualmente gli posso anche mettere, cos'era della pianta, il nome della pianta e il colore. Dov'è il colore? Listino prezzi, ID colore, però così forse viene solo il numero, no, ok. Ma se è raddoppiato vuol dire che... Se vai a vedere le date... Perché c'è qualcosa che non va. Perché direi che a questo punto... Eh sì. L'avevano fatto così a lezione? Ah no, vero. Ecco, infatti. Eh no, infatti come l'avevamo fatto a lezione è diverso. Quello che ho detto è diverso. C'è una tabella in più. Ma perché volevo anche che ci fosse una differenza di peso. Sì, sì, sì, va bene. Ma... quello che avevamo fatto noi, magari lo rifacciamo velocemente... Dunque noi l'avevamo fatto in questa maniera qua. fornitori. Con ID, fornitore e tutte le informazioni. Poi, clienti con ID, cliente e tutte le informazioni. Vendite, ID, vendita, che in realtà è un semplice contatore, poi la data della vendita, la qualità della pianta, qualità e quantità. Infatti qualità non ci sta, non è come il mio. L'importo, vabbè, vediamo un secondo, dai. L'importo, poi il, ok. Allora, ID codice pianta, ID codice pianta, e ID codice cliente. Poi pianta o piante, che è ID codice pianta. Il nome, il tipo, bla bla, ID, fornitore, e ID, prezzo. E poi ci sarà prezzi, con ID prezzo che si lega qua. Dove c'è? Sì, sì, poi c'è il colore, va bene. Prezzo, data di inizio e data di fine. Il colore l'abbiamo messo qua, l'abbiamo aggiunto come tabella esterna. Quindi questo era quello che avevamo fatto la volta scorsa. Allora, perché questo meccanismo qua non funziona tanto? Proviamo a vedere un attimo. Allora, qua mi dice che ogni fornitore dà più specie di piante e già ID posizione pianta. Ah, ok. Va bene. Quindi ogni fornitore ci dà più specie di piante. Se ci metto il colore anche lì delle specie di piante, però ci vengono diversi cambi vuoti. Sì, no, ma infatti non è questione del colore. Che differenza c'è tra specie piante e tipi piante? Il tipo è da verde o fiorita. Se è verde, non ci avrà colore, perché è un bulbo, non avrà colore, ma se è fiorita... Quindi specie sarebbe geranio, pino, cosa del genere, e dall'altra parte... Sì, ok. Quindi il tipo piante sarebbe o verde o fiorita. O verde o fiorita. Ma no, No, perché la pianta o è verde o è fiorita. E quindi deve andare a infilarsi dentro la parte specie pianta. E lo so, ma anche la volta scorsa abbiamo messo il tipo di pianta dentro piante. Anche la volta scorsa. Perché in realtà la pianta o è verde o è fiorita. Quindi quel tipo di pianta in realtà è una tabella in più. L'informazione del tipo di pianta deve andare dentro la specie di pianta. Ok. No, ma non è questione del colore, è questione del tipo di pianta. Cioè, le specifiche dicevano, deve essere o verde o fiorita. Non mi dice o colorata, con colore rosso, bianco e verde, o mi dice o verde o fiorita. Ok, quindi il tipo di pianta va all'interno della specie di pianta. E poi i colori... noi li abbiamo legati a piante, non al listino di prezzi. A seconda del colore cambia prezzo. E il tipo piante? D'appartamento o d'esterno? Specie. Comunque, insomma, sta tutto dentro un'unica tabella, insomma. Quindi la tabella piante dovrà avere il nome, il tipo e il sito. Quindi che sia verde o fiorita anziché l'appartamento all'esterno. Tutto all'interno della stessa. Che d'altronde ha anche un senso. Il punto del discorso qua è sul prezzo che giustamente Alfonso diceva, ma io voglio fare in modo che il prezzo possa cambiare a seconda del colore. Sì, è che è lecita come domanda. Sì, è lecita. No, semplicemente in questa maniera qua. Allora, in questo caso qua... la voce di geranio sarà riportata tre volte, bianca, rossa, rosa. Allora, innanzitutto guarda chi c'è qua. ID specie pianta. Ah, beh, è sarà che... ma non è un avanzo da poco. Vediamo se era solo quello, eh? No. Il bianco e il rosso, non era solo quello. Allora, tipo pianta. Ok, andiamo a vederci il listino dei prezzi. Tipo pianta fiorito di colore bianco. No, quell'ismo si viene automaticamente con gli elementi? Non ho capito. Quell'ismo dentro il campo. Quella piccina dovrebbe essere un po' di colori, eccetera. Sì, sono da impostare. Come imposta? Tipo, facciamo un diagramma? Sì, adesso non so se l'abbia fatto con la ricerca. Sì, sì, all'interno della proprietà. Ma comunque nel momento in cui c'è una relazione fra le tabelle, lui lo prende in automatico. No, qua il discorso... Sì, bisognerebbe cambiare un attimino, perché secondo me l'unica cosa che non va bene è il fatto che qua ci sia questa tabella in più. No, il tipo di pianta. Sì, sì, sì, vabbè, chiaramente poi quello va di seguito. Però qua il problema è che c'è questo ID pianta in più. Perché? Perché qua, nella query, nel momento in cui io gli vado a prendere il nome della pianta, che è qua, lui automaticamente lo va a legare con il tipo di pianta e con tutto quello che sta a valle. Quindi è questa tabella qua che non ci deve essere. Perché lui in automatico la va a prendere anche con tutto quello che sta a valle. E quindi se a valle ci sono due colori, due prezzi, due cose, lui va a pigliare tutto. Ma non è più, no, attenzione, attenzione, non è più una zero underscore, col cavolo. La zero underscore ha la particolarità di avere un solo collegamento ad una tabella. No, ma non è banale come cosa, Non è banale, perché in questo caso qua questa non è assolutamente una zero underscore. Questa è una tabella di scambio che fa una molti a molti. Vabbè, però poi si è evoluta. No, nel senso, attenzione signori, perché in questo modo qua, questa non diventa più una zero underscore, ma diventa una molti a molti. E a livello di logica cambia completamente, ma proprio completamente. Alfonso, prova a riprendere questo esempio qua, a inglobare il tipo pianta dentro le piante, dovrebbe cambiare sensibilmente. Sì, sì, ma è già un underscore la tabella colori. Sì, sì. Poi lui non l'ha chiamata zero underscore, ma la filosofia di questa tabella è una tabella che semplicemente raccoglie dei colori. Esatto. Ma in realtà no, il prezzo a seconda del colore continua ad esserci, perché nel momento in cui tu lasci il listino prezzi con l'ID tipo pianta, l'ID colore, data inizio, data fine, prezzo vendita, è già qua. Il prezzo cambia a seconda del colore, a seconda del tipo pianta e a seconda del colore. Sì. Sì, ma puoi farlo anche in questa maniera. Sì, sì, sì. No. Viene fuori lo stesso in realtà. Viene fuori lo stesso per il semplice motivo che nel momento in cui tu vai a fare la query, lui va a vedersi l'ID, listino prezzo, che c'era nel momento in cui l'hai fatto. Prova a farlo, vedrai che viene fuori. No, devi solo andare ad eliminare la tabella tipo piante, l'informazione del tipo piante e inglobarla all'interno di piante. Così dovrebbe funzionare. Il listino prezzi dovrà essere ovviamente poi per specie, certo. Dovrà essere poi per quello che qua è chiamato ID specie pianta, certo. Ho messo la mia valigetta qui sopra. Ah, è qua. Ok, signori? Ok, allora, questa sera volevo andare ad introdurre un nuovo discorso che sono le query di calcolo per riga. Quindi, quello che abbiamo fatto la lezione scorsa erano le query di calcolo per colonna. Perché sostanzialmente andavano a raggruppare le informazioni e ad effettuare delle operazioni su una colonna che potevano essere di conteggio, di somma, di media e quant'altro. A questo punto andiamo a vedere le query di calcolo per riga. Le query di calcolo per riga sostanzialmente che cosa fanno? Allora, apriamo Excel per farlo vedere più rapidamente. Io prendo ad esempio l'elenco dei film e lo porto su Excel. Allora, quello che noi abbiamo fatto la lezione scorsa è sostanzialmente una specie di tabella pivot su Excel. La query che stiamo per andare a fare in questo momento è una query di questo tipo. Anzi no, facciamo così. Allora, questa qua supponiamo che sia la mia tabella di access, d'accordo? Andare a fare una query per riga vuol dire sostanzialmente andare ad aggiungere un nuovo campo. Sì. Dove vado a fare un calcolo record per record. Quindi, ad esempio, per fare un esempio banale, supponiamo che io qua ho la durata in minuti e volessi fare la durata in ore, mi devo andare a nominare un nuovo campo, durata in ore. Dopodiché, quindi creo fisicamente proprio un nuovo campo, dopodiché faccio la formuletta che sarà, ad esempio, la durata in minuti diviso 60, giusto? E mi dà la durata in ore. Piglio questa formula e la porto giù. Ok? Quello in Excel. Però quello che andiamo a fare è la stessa cosa con Access. Questo è solo per spiegarvi che cosa stiamo andando a fare. Cioè stiamo andando a prendere una tabella, gli vado ad aggiungere uno o più campi, quindi una o più colonne, nelle quali vado a esprimere dei calcoli. Questo, Vanni, è quello che ad esempio mi chiedevi tu, cioè se io voglio fare il raggruppamento per data, cioè ecco un esempio che per esempio con Vanni è venuto fuori questa sera, è il raggruppamento per data. Mi spiego, lui ad esempio ha la data espressa, per esempio di, che ne so, le bollette anziché qualcos'altro, no? Quindi lui ha sostanzialmente l'anno, il mese ed il giorno. Una data fatta in questa maniera qua, ok? Io qua per comodità metto sempre il 1° aprile, ma l'anno, prendo l'atto, l'anno che c'è qua. Ora è chiaro che se io vado a fare un raggruppamento per data, viene impossibile, cioè non viene nulla, perché sostanzialmente dovrei avere più bollette arrivate lo stesso identico giorno, lo stesso identico mese, lo stesso identico anno, altrimenti lui è il raggruppamento col cavolo che me lo fa, siete d'accordo? Tanto è vero che se io vado a fare un raggruppamento di questa tabella qua, e prendo la data, quindi voglio vedere ad esempio quante tabelle, quante bollette ci sono in una determinata data, vedete che lui vi dà tutte le date. A te Vanni viene fuori una roba del genere. Siete d'accordo? Ecco, in questo caso io che cosa dovrei andare a fare? dovrei andargli a fare un campo calcolato dove gli dico, ok, prendimi l'anno. L'anno che cos'è? L'anno di questa data. Me lo trascino. E in questo modo il mio raggruppamento viene una roba di questo genere, che è decisamente, vabbè, qua di film ovviamente ce ne sono di anni diversi, però decisamente un elenco molto più piccolo di quello precedente. Ok? Quindi prima mi devo fare un campo calcolato che dalla data mi tiri fuori l'anno, poi un campo calcolato che mi tiri fuori il mese, e a quel punto vado a fare un raggruppamento per anno, per mese e un conteggio. È chiara la dinamica, Vanni? È chiara a tutti la dinamica, perché è un problema che può capitare a tutti, che si parli di fatture, no, per carità, bollette, che si parli di bolle d'accompagnamento, che si parli di qualsiasi cosa, se io voglio avere un raggruppamento per anno o per anno e per mese, se ho una data, prima devo tirare fuori l'anno, poi devo tirare fuori il mese e poi faccio un raggruppamento per anno o per mese. Perché se faccio un raggruppamento per data, non funziona. E chiaro... se per giorno, per mese, per anno, fare tre campi. Tre campi. Ok? È chiaro, Vanni, il meccanismo? È chiaro per tutti? Benissimo. Vediamolo su Access. Allora, su Access parto con una query normalissima. Quindi creiamo una query normale che prende l'elenco dei film, mettiamoci i campi che vogliamo, in questo caso non è granché importante, cioè qua io li posso mettere anche tutti, volendo. E prendiamo la durata in minuti. Ecco, in questo caso, signori, si vede particolarmente l'utilità di dare la nomenclatura ai campi come ve l'ho proposta io nelle prime lezioni. Perché? Perché andare a scrivere durata, spazio, aperta tonda, min, chiusa tonda, min, chiusa tonda, mi rende più complicata la dicitura dei campi. Sì, sì, sì. Sì, sì, assolutamente. Quindi la nomenclatura dei campi fatta in questa maniera qua rende più complessa l'azione in questa fase. Quindi fatemi rinominare un attimo la durata. La durata io la chiamo durata minuti. Se voglio che poi nelle maschere, nei report, mi appaia durata min, lo vado a scrivere qua nell'etichetta. Vado a scrivere durata min. Quindi il mio campo sarà scritto così, ma quando lo vado a stampare o quando lo vedo nelle maschere, mi appare cos'ha. Chiaro? Benissimo. Quindi riprendiamo la mia struttura della query. Riprendiamo l'elenco dei film, mettiamo titolo e quel che l'è, genere, eccetera, eccetera, e mettiamo la durata. Ora, dobbiamo creare il campo in più. Vi ricordate l'esempio prima di Excel, no? Quindi, imposto la mia query, mettendogli i campi che voglio. Dopodiché vado, scrivetevi bene che siamo nella struttura della query, dopodiché nella struttura della query vado nel primo campo a destra disponibile. Nella prima riga disponibile. Sì, allora, la prima riga è la riga campo, quindi devo andare nella prima casella disponibile a destra. e dovrò scrivere nome campo, dove ovviamente il nome campo sarà di volta in volta quello che meglio preferisco. Nome campo, che se gli date la nomenclatura come vi ho insegnato, cioè tutto attaccato, senza spazi, senza punteggiatura, senza parentesi, senza tutto, si riduce di molto la fisionomia, perché sennò dovrei mettere le virgolette, cose varie, nome campo. Due punti. Formula. È indifferente. Sì, sì. Ora, in Excel, io che cosa faccio? La mia formula che cos'era? Era, ad esempio, nella durata in minuti, che voglio che diventi una durata in ore, era la cella in cui si trova la durata in minuti, dico bene, che era per esempio la H2, diviso 60. Scrivetelo, eh? Se fossi in Excel, per trasformare la durata in minuti in durata in ore, dovrei scrivere come formula uguale H2, supponendo che in H2 ci sia la mia durata in minuti, diviso 60. Ora, in Access, come si trasforma questa formula? L'uguale sparisce. Al posto di H2 scrivo il nome del campo, quindi l'H2 si trasforma in durata minuti diviso 60. Signori, questo qua è un passaggio delicato, è di tutto il discorso. Se non è chiaro qualcosa, me lo dite. Invece di dividere per 60, puoi aggiungere per ogni campo, per ogni riga che tu hai. Allora, il concetto è proprio qua, esattamente. Allora, il per ogni riga che io ho, in realtà non c'entra più, perché non è Excel. Perché in Excel dovrei fare H2, H3, H4, H5. Qua H2, H3, H4, H5 diventa durata minuti. Esatto. Quindi, se tu volessi fare durata minuti più durata intervallo, puoi farlo in questa maniera. Qua non esiste, ovviamente, no? Il nome del campo. Esatto. Se invece vuoi fare più 30, scrivi più 30. Cioè, funziona esattamente come funzionerebbe Excel. E io ad un corso di Access mi aspetto che i miei studenti, non dico che siano dei capi di Excel, ma che bene o male H2 più H5 lo sappiano fare, no? Quindi il concetto è, funziona come Excel, solo che a differenza di mettere le celle, metto i nomi dei campi. E lui lo fa. Sì. Esatto. Per cortesia, allora, non mi diate del lei perché mi mette angoscia e non mi chiamate professore, va benissimo Vittorio. Ok, riprendiamo. Vittorio, dimmi pure. Sì. Aspetta. Adesso facciamo questa che è più semplice, le formuline matematiche, poco per volta, ci arriviamo. D'accordo, signore? Adesso poi complichiamo le cose da dovere, partiamo dalle cosine, dal 1 più 1, ok? Perché molti si fermano già qua. D'accordo? Se volessi, se volessi il totale dei minuti, bravissimo, dovrei fare la formula, la query di aggregazione che abbiamo visto la lezione scorsa quando tu non c'eri. Ok? Quindi, no, ma in realtà sto semplicemente ridando par per focaccia, perché quando siamo tornati da Natale mi hai tirato due scopole perché non avevo dato, allora io adesso, hopla! Allora, signori, è chiaro questo meccanismo? E quindi, il meccanismo, riprendo un po' tutto il discorso, la query di calcolo per riga va a fare quello che in Excel viene a creare una nuova colonna. Okay? Per fare questo io nella struttura della query mi sposto nella prima colonna disponibile e vado a scrivere il nome del mio campo, due punti e poi la mia formulina. La mia formulina fondamentalmente è così come farei in Excel, invece delle celle andare a mettere i nomi dei campi. D'accordo? Quindi, per trasformare la durata in minuti in durata in ore, andrò a scrivere durata ore, due punti, durata minuti, diviso 60. Se do l'invio e se do il tab e lui non si ribella, vuol dire che tutto è andato a buon fine. Ora, signori, vedete una cosa particolare, che lui tutti i nomi dei campi li mette tra parentesi quadre, ma lo fa in automatico. Ora, le parentesi quadre, se voi avete dato la nomenclatura, come vi dissi all'inizio, quando scrivete la formulina non gliele dovete mettere, perché se le metterà poi lui in automatico. Ecco che qua, se voi mettete degli spazi nei nomi dei campi, viene fuori la complicazione. Perché se i vostri campi hanno degli spazi all'interno, voi le parentesi quadre siete obbligati ad andare a mettere. Mi spiego? Perché nel momento in cui lui vede uno spazio, per lui, che ne sa che voi state continuando il nome di un campo anziché state scrivendo qualcos'altro? E allora le parentesi quadre siete obbligate a mettergliele. E quindi mentalmente complicate il meccanismo della query. Quindi, ripeto, all'epoca io vi dissi, magari qualcuno non era tanto soddisfatto della mia spiegazione, abituatevi a scrivere i campi così, poi lo vedremo. Poi lo vedremo, e uno diceva, poi, quando è poi? E il poi è arrivato. Il motivo è proprio qua, perché se no le parentesi quadre che lui mette in automatico dovrei andarle a mettere io, però in questa maniera complico un qualcosa che soprattutto all'inizio non è magari banalissimo. Ora, così facendo, nel momento in cui io gli do l'esegui, lui prende la durata in minuti e me la va a trasformare in durata in ore. Ok? Vedete che lui vi mette proprio un campo in più, come se avessi un campo in più. Se io la salvo, scusatemi, ho chiuso direttamente il database. Allora, se io salvo quella query, ok? okay, che è qua, trasformazione durata minuti ore, in un secondo momento nessuno mi vieta di andare a prendere quella query, quindi fare una query di query, e per ogni genere andarmi a trovare, ad esempio, la somma. Quindi questo mi trova i totali. Però lo devo fare in un secondo step. Ok? Quindi prima faccio le query di riga, calcolo per riga, e poi le query di calcolo per colonna. D'accordo? Che in realtà qualcuno, soprattutto chi è abituato magari a usare Excel, dice, ma caspita, ma è una complicazione in più, cioè devo fare due query per un qualcosa che con Excel posso trovare in un colpo solo. In realtà non solo non è un qualcosa in più, ma è un qualcosa di estremamente utile. Perché? Perché mi permette di modulare i lavori. Cioè io ho tanti blocchi che mi fanno cose diverse. E che poi... A seconda. Cioè, se tu dici, ma io questa qua magari la voglio poi stampare di volta in volta, che ne so, di mese in mese, andarmi a vedere quali sono i minuti complessivi dei miei film, te la salvi. Se tu vuoi farti solo una stampettina per darla ad un amico, fai il print e via. Ok? Quindi, signori, ci siamo su questo discorso qua. Vedete che fondamentalmente la query per riga non è poi complessissima, semplicemente la sintassi, lo ripeto, è nome del campo, due punti, formula. Ora, è chiaro che, come si diceva prima, le complicazioni poi possono arrivare, perché chiaramente a seconda del tipo di oggetto che io vado a maneggiare posso andarmi a complicare la vita quanto voglio. E fondamentalmente i miei campi in che cos'è che differiscono? Differiscono tantissimo a seconda del tipo di dati che maneggia il campo. Quando facevamo Excel, quasi tutti, a parte qualcuno si ricorda magari l'anno scorso quando abbiamo maneggiato Excel, in Excel noi che cosa facevamo? A seconda dei dati che avevamo, andavamo nell'inserisci formula e andavamo in categorie ben definite. Nel corso dell'anno scorso, tra le categorie che siamo andati ad individuare, c'erano tutte le formule inerenti le date, tutte le formule inerenti il testo, tutte le formule inerenti i numeri, vabbè, quindi la matematica in generale, ma se voi ci fate caso, questi non sono nient'altro che i tipi di dati dei campi nella struttura delle tabelle. Cioè, se voi prendete una struttura di tabella, e andate a cliccare lì sopra, vedete che sono esattamente quei tipi di dati. Perché c'è il primo tipo di dato che è testo, eccolo qua. Poi c'è memo, che non è nient'altro che il testo, ma più lungo, eccolo qua. Poi c'è numerico, eccolo qua. Data e ora, eccola qua. Valuta, è sempre un numero, solo che è visualizzato in maniera diversa. Contatore, è sempre un numero. Sì e no, sì e no, in realtà è sempre un numero, perché il sì è meno 1, il no è 1,0. Quindi è sempre un numero. Vabbè, l'ole e il resto sono poi oggetti particolari. Però vedete che sostanzialmente il tipo dei dati dei campi fondamentalmente è suddivisibile in queste tre tipologie. che sono, ripeto, in Excel. Quando io vado nell'inserisci formula, nelle categorie ci sono proprio data e ora, matematiche e testo. C'è poi una terza tipologia, una quarta tipologia, sulla quale l'anno scorso ho fatto impazzire i miei studenti, due anni fa, che sono le funzioni logiche. E anche in Access ci sarà tutta una bella sezione di funzioni logiche. È chiaro che andando a miscugliare, che fa schifo che in italiano non si usa, comunque a mischiare o a mescolare, tutte queste varie cose, chiaramente le mie funzioni possono diventare complesse a piacere. Dove si trovano? Ma sì, sono uguali, per fortuna. Allora, supponiamo che voglia andare... No, vi faccio vedere dove si trova. Scrivo qua un generico nome campo, ok? Nome campo. Allora, come si fanno a trovare tutte le funzioni in Access? Allora, dalla struttura della query, dopo aver scritto nome campo due punti, e ripeto, nome campo è un qualcosa di generico. Faccio clic destro dopo i due punti. In realtà lo posso fare anche subito, ma così a casa avete un riferimento ben definito. Faccio clic destro dopo i due punti. Si apre il menu a tendina, vado a cliccare sulla voce genera. Nel 2023 ci potrebbe essere il generatore di espressioni su in alto. Esatto, quello lì. Comunque c'è sempre la bacchetta magica, il simbolino è sempre lo stesso. Così facendo, mi apre una bella finestrella, fa anche rima. Mi apre una finestrella. E questa finestrella si divide in quattro sezioni. Allora, la prima è dove vado a scrivere, dove scrivo la formula. Quindi banalmente qua potrei andare a scrivere la stessa formula che scrivevo prima, semplicemente me la fa vedere, mi dà un po' di spazio in più. Poi, qui mi dà gli oggetti del database, quindi le maschere, le query, i report, le tabelle. Questo banalmente perché? Perché se non mi ricordo il nome del campo di una tabella, posso andarmelo a recuperare di qua. Quindi vado su tabelle, su elenco FI e lui mi fa vedere tutte le mie tabelle, tutti i miei campi. D'accordo? Ma soprattutto tra i vari oggetti che ci sono le funzioni. Quindi tra gli oggetti del DB ci sono le tabelle, le maschere, i report, ma soprattutto le funzioni. Ora, se io seleziono le funzioni, nella sezione a fianco, lui mi dà i generi. E se seleziono un genere, lui mi dà le funzioni. Devo essere sincero, è un po' arzigogolato, in Excel è senza dubbio più semplice. Però comunque fondamentalmente se avete lavorato in Excel il meccanismo mentale è identico, è solo un po' più complicata la disposizione. Però sostanzialmente vedete che se io vado a scegliere, ad esempio, le funzioni di data e ora, quindi qua schiaccio data e ora, sulla destra mi fa vedere tutte le varie funzioncine inerenti la data e l'ora. Purtroppo, ahimè, sono in inglese. Lo so. Con un vocabolario vicino uno va a vedersi. Eh sì, a volte non sono così immediate. Tenete conto che comunque, così come succede in Excel, c'è il punto interrogativo che vi racconta che cosa fa quella funzione. No. No, in realtà il punto interrogativo è internazionale. Quindi se voi andate a cliccare sul punto interrogativo, lui, dopo aver selezionato ovviamente una funzione, vedete che lui vi dice la funzione hour restituisce un valore di tipo variant che specifica un numero intero compreso tra 0 e 23. Lo so. Allora, qua il problema fondamentale, signori, è che mentre Excel è un programma rivolto veramente a tutti, perché Excel lo usano tutti. Access si dà per scontato che in realtà l'utenza che utilizza Access sia un pochino più... ma non elevata, cioè non voglio fare un discorso di... come dire... semplicemente chi va a utilizzare Access ha idea di che cosa sta andando a maneggiare. Quindi sicuramente, devo essere sincero, anche io le trovo un po' molto ostiche, spesso e volentieri. Soprattutto perché molte volte sono una traduzione becera dall'inglese all'italiano, quindi... Ok. Comunque, vabbè, insomma, poi lì di volta in volta magari uno, che ne so, o cerca su internet magari una funzione particolare o altro e a volte ci si arrabatta un pochino. Quello che mi interessa farvi vedere in questa sede è questa finestra qua. Quindi ve lo ripeto un secondo, si apre una query, si va a scrivere nome campo, due punti, e si va a fare clic destro sulla destra dei due punti. A quel punto si seleziona genera o generatore di espressione a seconda, funzioni predefinite, si sceglie una categoria e a destra vi fa vedere tutte le funzioni inerenti a quella categoria. Va bene? Ok. Proviamo a fare un caso semplice, sperando che... Chissà se c'è una data in questa... Non ci sono, vero, date? No, proprio date, date. Vabbè. Sì, va bene, date, va bene, date. Allora, io qua prendo le date per facilità dove is not null. Is not null l'avevamo visto, vero? L'avevo solo accennato? Vabbè. Allora, ricordatevelo poi magari che lo vediamo meglio, l'is not null e l'is null. Per il momento lasciamolo così. Qua ci sono le date, ok? Ci sono questi 7 record che hanno delle date. Voglio solo farvi vedere, ma molto velocemente, l'estrazione di un anno, un mese e un giorno. E così rispondo anche a Vanni. Allora, se io ho una data, ad esempio, se voglio trovare l'anno, andrò a scrivere anno, due punti, e vado nelle funzioni di tipo data. Allora, vedete che nelle funzioni di tipo data c'è month, che vuol dire mese, day, che vuol dire giorno, e year, che vuol dire anno. Tutte e tre richiedono come argomento una data. Quindi, così come in Excel, se avessi una data, qua andrei a scrivere uguale anno, aperta tonda, questo. Siete d'accordo? Qua devo fare la stessa identica cosa, quindi anno data uguale year, vado a togliere questa roba qua che me l'aggiunge, e perché lui si dà per scontato che io ancora non abbia scritto anno data due punti, quindi me lo dice lui. E qua dentro gli devo mettere il campo. La stessa cosa che ho fatto in Excel, giusto? In questo campo, in questo caso, il campo si chiama data. D'accordo? Così facendo, lui mi tira fuori l'anno. E quindi a questo punto l'aggregazione io la vado a fare per anno. Analogamente, se al posto di here andassi a prendere la funzione month, mi prenderebbe il mese, la funzione day mi prenderebbe il giorno. Ok, signori? Quindi, per tirare le file del discorso in questa lezione, cos'è che vorrei che faceste per la prossima volta? Nella vostra... Tra le prove che avete fatto, prendetevi una delle tabelle fatte, appunto, meglio se ci sono dei campi numerici e dei campi data, indipendentemente da quello che esprimono questi numeri, queste date. Sì, ma veramente mi è del tutto indifferente di che cosa possono esprimere quei campi. Però adesso concentriamoci sui numeri e le date, perché sono quelli, tra virgolette, più semplici da maneggiare. A quel punto, supponiamo che abbiate, che ne so, come in questo caso qua, durata, provate a fare dei calcolini molto semplici, come primo step, sulla durata. Quindi provate a scrivere, che ne so, calcolo, due punti, durata, più 30, durata diviso 2, durata diviso per 5 e cose del genere. Quindi questo come primo step, che è il più semplice. Dopodiché, se avete delle date, per esempio, che ne so, data inizio, per esempio nell'esempio delle piante abbiamo visto la data inizio e data fine, andatevi ad estrapolare l'anno, il mese e il giorno della data inizio e o della data fine. Quindi lo chiamerete anno inizio, che sarà year data inizio, mese inizio, che sarà month data inizio, e poi giorno inizio, che sarà day data inizio. E questi sono i primi esempi di funzioni leggermente più complicatine. Sulle date, ad esempio, ci sono delle funzioni particolarmente utili come il dateAdd e il dateDiff, che servono sostanzialmente o ad aggiungere un tot di giorni o un tot di mesi o un tot di anni ad una data. Molto utile. Io ho una data, gli voglio aggiungere 10 giorni, 60 giorni, 90 giorni, lui lo fa. Il dateDiff serve per calcolare la differenza tra due date e mi esprime la differenza o in giorni o in mesi o in anni. E anche questo è estremamente utile. D'accordo, signori? Ad esempio, nell'esempio che abbiamo fatto del vivaio, se io volessi sapere ogni prezzo quanti giorni è durato, potrei andare a farlo con un dateDiff, con un campo calcolato dateDiff. Ma lo vedremo più avanti. Adesso quello che mi preme è che voi iniziate a fare, su un qualsiasi esempio che avete a casa sotto mano, un calcoletto su dei numeri e l'estrazione di un giorno, anno, mese, di una data. Ok? Perfetto. Domande, signori? No, perché il colore, allora, il colore in realtà era un campo, aspettate a scappare signori, il colore nell'esempio che abbiamo fatto la lezione scorsa era un campo all'interno di delle piante, all'interno delle piante, ok? Quindi era dentro piante. La tabella di raccordo semplicemente mi serve perché nel momento in cui vado a inserire una nuova pianta, invece di andargli a scrivere io il colore, blu, verde, giallo, verde, me lo vado a pescare con un menu a tendina della tabella di raccordo. Questo per un problema di ridondanza? No, non è una questione di ridondanza. Le tabelle di raccordo noi le avevamo viste per il menu a tendina. Perché avevamo detto, se l'utente mi va a mettere un colore, per usare un tecnicismo informatico, adesso non so se l'avevamo già introdotto questo termine, quindi un colore ad catsum, sì, è proprio informatico, poi magari vi... Quindi se vai a inserire un colore ad catsum, chiaramente quando io vado a fare una query, se invece di blu avevo scritto blue, rischio di avere delle query completamente ciuche. E allora per obbligare l'utente ad inserire sempre come blu o blu o blue, vado a farmi una tabella di raccordo. In fase di inserimento, cioè le tabelle di raccordo, signori, servono esclusivamente in fase di inserimento. Ma quando vado a fare le query, di quelle tabelle di raccordo fondamentalmente me ne disinteresso. Ok? Signori, buona serata, buon weekend, ci vediamo venerdì prossimo. Forse.